Sonia Alfano, figlia di Beppe, giornalista ucciso dalla mafia a Barcellona Pozzo di Gotto nel Messinese nel gennaio 1993, è la candidata lanciata oggi da Beppe Grillo per la guida della regione Sicilia ed è con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Noi tra l'altro abbiamo seguito nei nostri giornali radio le vostre vicende, lei era una delle rappresentanti delle vittime della mafia che si era incatenata davanti alla prefettura di Palermo, se non erro, per ottenere pari dignità di trattamento con le vittime del terrorismo. Allora, come mai ha scelto questa candidatura? No, ho accettato una proposta che arrivava dal basso, arrivava dai giovani, arrivava dagli amici di Beppe Grillo ed è stata soprattutto una richiesta di partecipazione non soltanto a progetti e punti condivisi, ma proprio un'intenzione di cominciare a fare qualcosa, di essere protagonisti di una politica pulita, quella che purtroppo manca ormai da troppo tempo, soprattutto in Sicilia. Noi ecco, vogliamo essere protagonisti della nostra politica, ma soprattutto della nostra terra. Io quando penso alla Sicilia penso a una lata in sala di rianimazione e ognuno di noi ha sì dei diritti ma anche dei doveri e in questo momento il nostro dovere è quello di esserci, di essere presenti, di essere a disposizione dei cittadini, infatti questa è una candidatura al servizio dei siciliani e poi ecco noi ci siamo uno spiraglio di novità in questo momento. Alfano, mi scusi, io la interrompo perché è appena arrivata un'agenzia, proprio in questo momento, la Corte di Cassazione, apprendiamo, ha disposto la scarcerazione per scadenza dei termini di Giuseppe Salvatore Riina, il figlio terzogenito del boss di Corleone, Totò Riina, detenuto al 41 bis a Sulmona. Riina Junior dovrebbe essere liberato a breve. Come se la commenta questa notizia, posto che dovremo avere delle maggiori informazioni sulle motivazioni e quant'altro? Che alla fine questo paese si rivela sempre più garantista nei confronti dei carnefici e non delle vittime, purtroppo. Lei, anche perché appunto ha aderito a questa iniziativa di Beppe Grillo, oggi diceva verranno pubblicati online i certificati penali di tutte le persone. Esatto. Insomma, ecco, quindi è una cosa che farete adesso, visto che no, avete... La dobbiamo fare ed è così, ma noi non abbiamo paura. All'interno delle nostre liste ci saranno tutti i giovani, saranno tutti i ragazzi, tutte persone pulite, persone per bene. Io adesso ogni giorno leggo i giornali e leggo, mi sembrano un po' dei tentativi di adescamento a favore di giovani che lavorano nelle agenzie interenali, nei call center, delle casalinghe. Li stanno adescando per poterli mettere nelle varie liste in modo tale da darsi una veste che non gli appartiene, che non è loro, ma se ne sono accorti adesso che la Sicilia è fatta soprattutto di operai, di gente che lavora, di precari che viene utilizzato come riserva di voti e di clientele, ma se ne sono svegliati adesso. Un'ultima domanda, Sonia Alfano, quanti anni ha lei? 36 e 3 figlie. Bene.